Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all want to know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do it. Ed eccoci, eccoci, eccoci qua, finalmente in questa puntata, che bello! Allora, oggi lunedì, probabilmente, che giorno è lunedì prossimo? Lunedì sarà il 20. Lunedì 20 aprile 2026, questa è Nervature, io sono Addu e siamo su Radio Wombat, Radio Libera e Autogestita di Firenze. Ero indecisa sul giorno perché, come avete intuito, stiamo registrando, per cui diciamo posso comunque ricordarvi tutti i contatti per chiacchierare con noi, però ecco, vedremo i vostri commenti dopo e risponderemo quindi magari tra una settimanina. Quindi, diciamoli questi contatti, sono radiowombat.net, il sito da cui potete trovare tutti i vari podcast, le puntate vecchie e future, a volte succede anche quelle future, e dal sito trovate anche tante tante altre info interessanti, per esempio nella sezione dei contatti e per esempio quello del pad, il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta e non, appunto, il cui link è direttawombat.vado.li. Allora, mi scuso un attimo per questi aggiustamenti di volumi che stanno avvenendo in live, ma è il bello della diretta. Quindi a questo punto non mi resta che introdurci anche alla puntata odierna. Oggi puntata super bella, super speciale, sono molto contenta perché non sono qui da sola in studio, in regia, ma ho altre due belle anime che mi stanno accompagnando. Quindi Vale e Bianca oggi mi aiuteranno, anzi, cioè, più che altro parleranno loro, io farò domande perché ne so ben poco, comunque a trattare il tema bambù. Vado. Quindi potete comunque intervenire, parlare ai microfoni in qualsiasi momento vogliate. Detto questo, ecco, per quindi così vagamente accennarvi al tema già adesso in apertura, parleremo della pianta del bambù, appunto, sotto vari aspetti, chiaramente partendo da un approccio, diciamo, più botanico, se vogliamo, quindi raccontiamo un po' della pianta in sé, che questo ci porterà a parlare delle sue caratteristiche, dei suoi usi, soprattutto in ambito di costruzione, e poi da lì, appunto, le nostre ospiti in sala ci racconteranno una loro esperienza molto figa e specifica di quello che appunto hanno studiato riguardo a questa pianta in Colombia. Quindi, ovviamente, mi piace figa e specifica. È vero? È un nuovo claim della mia vita. No, scherzo. Perfetto, perfetto. E, che dire, magari ecco, iniziamo con un primo brano e poi ci risentiamo fra pochi minuti per appunto addentrarci in questo grande argomento. A tra poco. Don't think I understand this feeling. I'm Ed eccoci qua che rientriamo in voce. Questa era I Drink the Light, molto figo come titolo, tra l'altro, di Tomora o Tomura, non lo sappiamo, aiutateci voi. Eccoci quindi che appunto rientriamo qui in voce per parlare di bambù, come abbiamo già accennato in apertura. Allora, io mi fionderei subito diretta proprio nell'argomento, perché purtroppo abbiamo tanto ma non abbastanza tempo. Quindi, dicevo che parleremo della pianta in sé, di come è fatta, però prima, siccome ci piacciono le storie, ci piacciono gli aneddoti, diteci come mai siete arrivate a questa pianta, come mai vi siete approcciate allo studio e alla passione per questa pianta. Buonasera, allora sono Vale, grazie a Du. Mi sentite? Un po' più vicina, vai. Un po' più vicina. Avvicinati il microfono così. Sì, mi sentite? Sì, sì, vai. Sono Vale e ho studiato architettura all'Università di Firenze e ai tempi, già al secondo anno, si tratta del 2012-2013, ho iniziato a far parte del collettivo ARC, costruendo, il collettivo studentesco di architettura. E diciamo che la direzione del collettivo ai tempi era quella di affiancarsi alla didattica, che consideravamo troppo teorica, e quindi volevamo sperimentare con mano quello che studiavamo sui libri. Comunque stavamo studiando architettura, quindi come costruire, per cui organizzavamo un sacco di eventi, tra cui laboratori di autocostruzione. All'inizio, i ragazzi prima di noi avevano costruito in pali innocenti e gialloni, una scala bellissima, e noi costruivamo con materiali di recupero, legno, e a un certo punto abbiamo incontrato il bambù. Non mi ricordo precisamente come è successo, ma qualcuno ha detto: ma perché non usate il bambù per i laboratori? Organizzammo il primo laboratorio di autocostruzione in bambù, fu un successo, e poi io incontrai anche un sacco di persone che avevamo chiamato, tra cui Marco Fabiani, Francesca Parotti, mi ricordo che studiosi, ingegneri di bambù, e io mi appassionai. E poi chiesi a un professore, quello che poi divenne il mio relatore di tesi, come avrei potuto fare una tesi in bambù, e lui mi disse: beh, vai una tesi in bambù. Mi piace, voglio fare una mi tesi piace. Di materiale bambù rilegata con... sarebbe stato interessante, non ci avevo pensato, cavolo, vedi, quindi un'applicazione no. In più una tesi sul bambù come materiale da costruzione, e lui mi disse: beh, vieni in Colombia con me. Insomma, questo è un po' è stato il mio approccio. Abbiamo uno spoiler, il primo spoiler della puntata. Prego. Tu l'hai già fatto. Ups. Ok, bello, bello, ci piace. Bianca, dici io. Di te. Allora, io sono Bianca, ciao a tutte e tutti. Ma in realtà il mio aneddoto è molto breve, nel senso che io scopro il bambù e mi appassiono di bambù pensando di studiare tutt'altro. Vado dallo stesso docente, dallo stesso professore, che sarebbe diventato poi anche il mio relatore di tesi. Io ho fatto una tesi con Valentina. Dove? E ve lo diremo nella seconda parte della puntata. Però mi presento dicendo: allora, io vorrei studiare le architetture in terra cruda. E il prof: ma certo, non c'è problema, vieni con me. E mi associa Valentina e fa: bene, lavoreremo sul bambù. Io resto un attimo perplessa e faccio: ma io veramente, professore, lo studio un'altra cosa? E lui: no, ma il bambù è molto meglio. Beh, anni dopo posso dire che avesse ragione. Comunque lo fanno spesso i professori, di sì, dire... di cambiarti il tema in corsa. Sì. Molto bello. Ma tra l'altro, molto chi carino. La conosceva, Bianca? Sì, esatto. Non conoscevo il bambù tanto quanto non conoscevo Vale, quindi è stato due scoperte. Bello, bello, ci piacciono queste storie. Sì, interessante, perché abbiamo in un certo senso iniziato la puntata con una pianta storia, ma in realtà finiremo anche con una pianta storia. Altro spoiler di questa puntata, mannaggia, gravissimo. Va bene, grazie, grazie. Allora, quindi magari, ecco, per introdurre questa puntata parliamo del bambù, di che tipo di pianta è, come si presenta. Sì, vado. Allora, il bambù, tra l'altro, è chiamato spesso oro verde dalle popolazioni orientali e acciaio vegetale da chi ne studia le proprietà meccaniche, ed è una pianta perenne, sempreverde, che cresce molto rapidamente. È originaria delle regioni tropicali e subtropicali del mondo, in particolare dell'estremo oriente. Cresce spontaneamente anche in Africa, in Oceania, in Sud America, ma il fatto che non sia originaria appunto delle zone temperate non significa che non cresca anche qua. Cresce anche in Europa, dove è stata importata tramite propagazione vegetativa, ed è una pianta della famiglia delle graminacee, sottofamiglia Bambusoidee, spero si dica così, l'ho sempre detto così, e che racchiude circa 1400 specie e 100 generi, e a seconda della specie e del genere appunto può variare in altezza, possono variare anche le gambe, le forme di colori delle canne. La cosa incredibile è che appunto cresce molto rapidamente, può arrivare fino a 30 metri di altezza e il diametro può raggiungere 30 centimetri, e anzi cresce anche fino a 120 centimetri in un giorno, quindi è davvero strabiliante. Ad esempio il genere Philostachys sedulis, che è originario della Cina centrale, è sicuramente il più diffuso in Italia, mentre, da non confondere con un altro genere piuttosto diffuso in Italia e in Europa, che è Arundodonax, che è la canna più comunemente conosciuta, che cresce lungo le ripe e le scarpate. Quello che volevo raccontare è anche un po' le componenti del bambù, appunto la parte sotterranea, le comunemente dette radici, si chiamano rizomi e sostengono la pianta. Dal rizoma nasce la gemma e poi il germoglio, e dal germoglio si sviluppa la parte aerea, che è la parte più conosciuta della pianta ed è anche quella più utilizzata nel campo delle costruzioni. E la cosa bellissima è che cresce già attraverso il germoglio con il suo diametro definitivo, quindi il diametro non cresce in spessore come ad esempio quello, il tronco dei legni, e soprattutto ha tutti i nodi incastonati uno sull'altro, che poi si allontaneranno e cresceranno, faranno crescere la pianta in senso apicale, conferendogli appunto quella conformazione tubolare e cava tipica del bambù, cava ma irrigidita da dei diaframmi in corrispondenza dei nodi, dove si innestano poi i rami e le foglie. E quindi questa geometria è molto particolare. E infine volevo accennare alla fioritura, perché alcune specie fioriscono frequentemente e con cadenza regolare, altre specie invece fioriscono ad intervalli di 80-100 anni, che sono tantissimi, e soprattutto hanno una fioritura gregaria. La fioritura gregaria è un fenomeno molto particolare e prevede che tutti gli individui della stessa pianta madre, quindi che sono stati riprodotti tramite propagazione vegetativa, anche se sono distanti geograficamente, fioriscono appunto in archi di 80-100 anni nello stesso esatto momento, come se avessero un orologio biologico collettivo interno. E questo è un fenomeno, tra l'altro, che è ancora oggetto di studio, perché è ancora piuttosto misterioso. Questa musica sotto è bellissima. Ci sta benissimo. Ci sta benissimo. No, mi piacerebbe mettere un po' di musica, ma in realtà, come si diceva, il tempo non è tantissimo. Ecco, sì, questa cosa della fioritura gregaria è veramente strabiliante. Però, scusami, forse mi sono perso, l'hai detto? Comunque, cioè, sono le piante che derivano dalla stessa pianta madre? Sì. Ecco, ok. Tutti gli individui che derivano dalla stessa pianta madre. Quindi diciamo le tale cloni. Esatto, tutti i cloni. Ovviamente piante diverse e ibride non hanno questo funzionamento, sì. Ok, ok. No, viene veramente la tentazione di mettersi a ballare qui, ma andiamo avanti. Sì, veramente pianta strabiliante. Ecco, quindi ora che ci hai un po' fatto una panoramica su come è fatta, come è strutturata, sappiamo, ormai sappiamo tutte e tutti, che si usa tanto in ambito architettonico. non particolarmente da noi, ma siamo qui proprio per spiegare questo oggi. E non solo. Esatto, e però non solo. Quindi se magari vi va di fare un po' una panoramica su tutti i modi, i campi in cui si può utilizzare questa pianta. Volentieri, qua vado io. Dai. Allora, intanto il bambù è veramente una risorsa dalle mille applicazioni. Potremmo, forse più che il bambù, ha senso dire i bambù, perché chiaramente da specie a specie le applicazioni possono cambiare. Ma soprattutto come del maiale, secondo la tradizione, anche del bambù non si butta niente. E quindi noi abbiamo visto sculture, opere d'arte realizzate con i rizomi in bambù, che forse è l'applicazione anche meno così degna di menzione. No. Come? Stai scherzando? No, pazzeschi. Bellissimo. Sono pazzeschi, ma ciò nonostante... Lampadari. Vero, no, hai ragione. Alcune erano notevoli. Però, insomma, detto ciò, era solo meno degna di menzione, perché le altre sono ancora meglio, cosa avete capito? Vabbè. Quindi del bambù non si butta niente, abbiamo germogli che fanno parte di menù sofisticatissimi asiatici, sono certa che molte di noi l'abbiano trovato ordinando qualche piatto a base di bambù o qualche pollo al bambù e quant'altro, funghi e bambù. Quindi il bambù si mangia, il bambù si tesse, o per meglio dire le fibre di bambù si possono usare nella produzione di tessuti, di varie tipologie e in realtà ormai è abbastanza comune trovare anche stoffe, quindi vere e proprie stoffe utilizzate proprio per abiti o sciarpe o scialli realizzati in bambù e non solo, quindi settore tessile. Poi abbiamo i culmi di bambù, quindi il bambù intero, sezionato, che viene utilizzato a diverse applicazioni, soprattutto nel mondo del design e poi anche nell'edilizia, come vedremo. E poi c'è tutta una dimensione invece, diciamo, di sezioni di bambù, le lamelle di bambù, il bambù splittato, quindi culmi tagliati verticalmente, quindi parallelamente all'asse, alla direzione con cui si sviluppa il bambù, possono essere utilizzati sia per realizzazioni da stuoie o cesti, contenitori vari, sia per irrigidire, diciamo, con approfittando delle prestazioni strutturali del bambù, quindi per irrigidire materiali. Addirittura ci sono laboratori in Svizzera, che forse è uno dei posti in cui il bambù cresce meno, che comunque quantomeno è, diciamo, per definizione di importazione, per definizione alloctono. Ci sono laboratori in Svizzera che studiano come utilizzare il bambù per armare il cemento. Gli svizzeri sono appassionati di cemento e studiano quanto si può tendere il bambù, quanto sottile possono essere i cavi di bambù per garantire delle prestazioni paragonabili a quelle dell'acciaio nell'armare il cemento. Quindi questo per dire, si fanno parquet di bambù, si fanno mobili di bambù, si fanno, oggi esiste il bambù lamellare, cioè l'applicazione, diciamo, in forma lamellare del bambù è molto apprezzata, quindi si fanno pannelli in bambù, è veramente super super super impiegato in tantissimi campi, a tantissime scale, con tantissime finezze di lavorazioni, forse soprattutto nel mondo, nell'edilizia, che è quello che noi conosciamo di meno, però è il settore in cui effettivamente il bambù predomina in tutto il resto del mondo fuori dalla nostra bolla. Mm-hmm. Sì, ci hai fatto una bella panoramica, effettivamente. Comunque a me mi stupisce un sacco che si mangi. Cioè, non so, è strano, proprio il germe... È gustoso, sì, ma in effetti è un'erbacea. Cioè, quindi effettivamente è... A parte che è l'ultima volta che sono andata in un ristorante, peraltro stellato, ho mangiato germogli di pino sottaceto. Che dici? Ed erano buonissimi. Wow. Quindi, i germogli a questo punto possiamo darci, cioè, sono buoni quelli di pino, direi che diventano aghi. Vuol dire che possiamo prenderli in considerazione tutti. Sì, anche tipo, germogli. Scusa, te ne posso dire un altro germoglio? Quello del pungitopo. Verissimo. Io non li ho mai mangiati. Le sul germoglio di pungito? No, di pino sì, vabbè, effettivamente era tipico di quel posto. Però erano morbidi, buonissimi. Figo. Bambù fa questa cosa. Sì, è vero che stupisce che si mangi. Però in effetti sì, è un'erbacea. Cioè, perché non farlo? Ci sta, però delle graminacee di solito si mangia il seme, magari, il chicco, no? Il grano. Invece delle palme si mangerà qualcosa dalle palme. Non sono proprio graminacee, però sono molto utili anche loro. Sì, le palme in... Vabbè, i frutti la base. Di alcune... Esatto, infatti stavo per dire, a parte i cocchi o... Sì. E, delle palme, le basi si usano per applicazioni simili al bambù. Non sono compatte e resistenti quanto il bambù, quindi in realtà si sfaldano molto, sono estremamente fibrose. Forse meno perché il bambù ha questa... Cioè, si mangia anche perché è poco fibroso, o meglio, ha le fibre molto compatte, quindi resta... Come dire, sodo e croccante. Penso non potevi dirlo meglio. Davvero. Comunque... Sodo e croccante. Ho fame, tra l'altro. Dillo un panda, esatto. Dillo un panda. Vabbè, i panda sono dei veri appassionati, non solo dei germogli di bambù. Tutto il bambù. Wow. Il bambù molto è il maiale bello. Dei panda. Molto bello, molto bello. You can't stop me, you can't stop me, you can't stop my life. No, you can't hold me, you can't control me, just let me live my life. Bust it, bust it, bust it on them now. Bust it, bust it, bust it on them now. Bust it, bust it, bust it on them now. Bust it, bust it, bust it on them now. Why you wanna stop my flow, you wanna stop my dough, you wanna take my life. Why you wanna stop my flow, you wanna stop my dough, you wanna take my life. I've got to survive, protect my own life. You put my back against the wall, you left me no choice. You never listen till my big gun I make nice. After the car chase, after the gunfight, after the feds them coming after midnight, after the smoke clear, after the sunrise, me still a bust it when them in a broad daylight. After the lies and all the conspiracy, after we fulfill the works of prophecy, after the brainwashing. Yo ragaman, rientriamo in voce. No, allora ci stiamo facendo accompagnare fin troppo forse dai Ciancia Via Circuito. Ci piacciono assai, veramente. Questo è l'album Rondante, anche bel nome dell'album, tra l'altro. Sì, e infatti ogni tanto prende un po' il sopravvento, ma va bene così, il bello della diretta, come sempre. Ok, abbiamo quindi visto un bel po' di modi per usare o mangiare o fare cose con il bambù. Magari, ecco, a questo punto soffermiamoci un attimo sull'ambito strutturale, quindi della costruzione. Come mai si può usare per la costruzione? Come mai? Che caratteristiche particolari c'ha? Beh, il bambù è una pianta sorprendente e competitiva. Appunto prima accennavo al fatto che lo chiamano acciaio vegetale e c'è una ragione, perché grazie alla sua geometria, alla sua struttura fibrosa, ha una resistenza a trazione, quindi se io lo tiro longitudinalmente lungo le fibre, questa resistenza è molto elevata, quindi una resistenza a trazione. Cioè, per spiegare la trazione anche alla radio, diciamo, immaginate di prendere una stecchina, un asse, qualcosa di lungo e afferrarlo all'estremità e tirare verso l'esterno, quindi per stenderlo, allungarlo il più possibile. Quello è lo sforzo che subisce un oggetto sottoposto a trazione. Grazie Bianca, mi hai fatto veramente visualizzare. E sottoposto a attrazione, nel senso, e lì pensate di afferrare e tirare verso voi stessi. Il bambù è resistente anche lì. Anche a quello. Wow, bello. Quindi appunto una resistenza a trazione è molto elevata, è paragonabile a quella dell'acciaio. In realtà quella dell'acciaio è una delle resistenze a trazione maggiori dei materiali industriali, però ecco, l'acciaio pesa molto di più, quindi considerando il peso molto leggero del bambù e la sua resistenza a trazione, si può paragonare a quella dell'acciaio e ha anche una elevata resistenza a flessione. Secondo me, Bianca, potresti aiutarci anche nel visualizzare questo. Allora, con la flessione è un po' più difficile, perché a questo punto dovete immaginarvi quello stesso oggetto allungato e sottile che prima avete tirato per gli estremi, diciamo saldato in uno solo dei suoi punti, dei suoi vertici, a una superficie o comunque diciamo al suolo, e sottoposto a sforzi, cioè a questo punto invece che tirarlo lo... Anche il vento potrebbe essere. Ok, esatto. Diciamo lo piegate, spingete, lo piegate, lo fate dondolare e vedete che cosa succede. E appunto si piega senza rompersi. Ecco, non è banale. No, attenzione. A differenza del cemento, ecco, che invece è molto resistente a compressione, quindi se compresso, se schiacciato, ma fragile a attrazione. E in realtà appunto abbiamo preparato anche una bibliografia, insomma una piccola bibliografia per approfondire alcune cose, perché non potremmo essere neanche troppo esaustive, però ecco, questa combinazione di resistenza, leggerezza, flessibilità lo rende anche particolarmente adatto ai contesti sismici, proprio perché è in grado di assorbire questa spinta. Quindi per quanto riguarda proprio le proprietà meccaniche e strutturali, è davvero sorprendente come materiale, e non è però solo una questione di prestazioni meccaniche, perché il bambù è anche una risorsa rinnovabile. Abbiamo detto che cresce rapidamente, assorbe anidride carbonica durante la crescita e comunque richiede poca energia, relativamente poca energia per essere lavorato, al contrario invece di altri materiali industriali come l'acciaio e il cemento, che hanno un'impronta ecologica molto più elevata, anzi anche a fin di vita dei materiali, quindi non si tratta solo di produzione, ma l'acciaio, nonostante sia riciclabile quasi infinitamente, il processo di appunto il riciclo dell'acciaio è altamente energivoro, e non parliamo del cemento. Il cemento è tutto scarto altamente inquinante, non si ricicla e produce appunto grandi quantità di rifiuti. E diciamo che questo è un punto fondamentale, e è stato un punto fondamentale anche per diciamo, la nostra visione dell'architettura e la direzione che la nostra tesi voleva prendere. Cioè, il settore delle costruzioni è tra i più impattanti in assoluto, è responsabile anche di oltre il 40% delle emissioni globali di gas serra. Quindi, insomma, crediamo... Lo credi anche tu, vero Bianca? Sì, lo credo anch'io. Crediamo che... comunque architette, progettiste, designer abbiano anche una certa responsabilità. Sì. Se posso inserirmi, diciamo, la verità è che la cosa migliore da fare sarebbe non costruire più. Perché innanzitutto probabilmente esiste un prima e un dopo alla costruzione in cemento, cioè il cemento, l'asfalto, corrispondono a un processo irreversibile di impermeabilizzazione dei suoli ed erosione, perché per fare il cemento bisogna consumare quantità di sabbia, enormi quantità d'acqua enorme, e si interviene sul suolo in un modo che con i materiali naturali non si fa. Quindi le fondazioni in cemento sono qualche sì, e fondazione è usato a proposito perché non è fondamenta, almeno ad architettura ci insegnano così. Ma ci tenevo a pensare a citazione che pare ogni dubbio. Coglierà. Esatto. però insomma, la verità è che non bisognerebbe più costruire. Se costruiamo, è fondamentale pensare che vita hanno gli edifici che costruiamo, che da dove vengono i materiali che utilizziamo, che cosa, in che modo potremo, nel momento in cui un edificio dovesse cambiare destinazione d'uso o anche smettere di avere ragione d'essere, in che modo possiamo intervenire. Il bambù risponde in modo sorprendente a tutte queste voci. Quando diciamo che ha un impatto bassissimo, significa anche che il bambù è molto meglio del legno, intanto da alcuni punti di vista che riguardano le performance, quello che strutturali, quello che ha detto Vale, ma anche perché cresce molto più rapidamente, quindi è pronto molto prima, e avere un bosco di bambù dal quale attingere materiale, tanto per dire, significa non disboscare. Cioè il bambù, noi possiamo avere un bosco di bambù e prelevare i culmi che ci servono per costruire senza, diciamo, potendo contare su una continua rigenerazione del bambù tale per cui il bosco si mantiene tale, ok? Non servono i tempi lunghi del legno, quindi ecco, davvero sorprendente anche da quel punto di vista. Sì, ora per l'appunto, già che parlavi di questo, in realtà anche nella gestione forestale c'è modi e modi assolutamente di gestire una foresta, quindi prima eravamo abituate alle foreste, appunto, si taglia tutto, ci serve tot metri cubi, ok, o tot chili, si taglia, via. Invece no, il ceduo può essere gestito in modi molto diversi, anche se ancora non ci siamo, non so come dire, cioè ancora non l'abbiamo interiorizzate abbastanza queste cose in Europa, in Italia soprattutto. Quindi si continua a fare gestioni sbagliate, però anche il bosco gestito in un certo modo, chiaramente avendo a disposizione una certa quantità di superficie, comunque un tot serve, può essere rinnovabile anche assolutamente quello. Assolutamente sì, grazie alla precisazione. Mm. Però sì, chiaramente il caso del bambù è un esempio veramente, cioè, diverso, perché se qualche ascoltatrice, ascoltatore che è in linea ora ha una bambusetta per quanto piccola a casa, si sarà resa conto della velocità, della con velocità, cresce, della potenza. E sì, come dicevi, no? 120, hai detto, mi sembra, sì, centimetri. Sì, può arrivare fino a sì, però sì, insomma, 120 centimetri in 24 ore. Follia. Comunque esistono dei bambusetti anche qui in Toscana. Certo, ovviamente sì, sono filiere corte, insomma, magari non producono materiali da costruzione per forza, però insomma, sì, ci sono dei bei boschi di bambù. Sì, sì. Ma poi, diciamo, anche una questione di tempi, il bambù è pronto per essere utilizzato dopo 4 anni, almeno le tipologie di bambù come la guadua, di cui poi parleremo, che sono utilizzate di più in edilizia, che sono più resistenti, sono pronte in 4 anni, e questo è veramente poco. Scusa, precisazione, spoiler, ma 4 anni se le coltiviamo da noi o se le coltivano, per esempio, in Colombia? Cioè, c'è condizioni ambientali un po' diverse, magari? No, allora, in realtà la guadua viene pochissimo coltivata da noi in generale, ma i tempi non cambiano, diciamo, particolarmente. Sì, generalmente dopo i 3-4 anni i culmi sono considerati maturi e pronti al taglio, okay, pronti per essere utilizzati. Mm-mm-mm. Pazzesco. Ecco, quindi se riusciamo a fare veramente in pochissimi minuti un sunto, quali sono le fasi necessarie, a parte la coltivazione, dal taglio in poi, per poi usare i culmi appunto in costruzione? Le fasi che richiedono cura sono praticamente tutte, appunto, la gestione del bosco di bambù, e il taglio che deve essere fatto in un certo momento particolare, la fase di essiccazione in cui il culmo perde acqua, perde umidità, quindi si ritira e rischia di fessurarsi, e quindi deve essere appunto stoccato in un certo modo, in un ambiente ventilato, ma anche ovviamente l'applicazione di trattamenti, di cui ora dirò due parole, però fino ad arrivare alla posa in opera, ovviamente. Ovviamente dipende dal contesto, dalla regione geografica, dal genere di bambù, però ecco, una accortezza in tutte queste fasi è fondamentale. Bisogna anche tenere a mente cosa ci vogliamo fare appunto con il bambù, certamente. Proprio per quanto riguarda i trattamenti, volevo dire due parole, perché la durabilità, diciamo, di una costruzione in bambù è uno dei punti più controversi. Se non c'è cura, non c'è conoscenza e non vengono, diciamo, non solo applicati i trattamenti, però non viene utilizzato in maniera adeguata il bambù, una costruzione può durare effettivamente molto poco. Ma se invece si gestisce bene, è una risorsa veramente strategica. Però appunto i trattamenti sono tantissimi, dipendono dal contesto, dipende anche da, appunto, da quello a cui si vuole arrivare. Quello che volevo dire è che l'immunizzazione, quindi cercare di proteggere il bambù da muffe, parassiti o funghi, è molto importante, perché comunque è una pianta ricca di amidi e zuccheri, e ci sono tantissimi trattamenti preservanti. Ci sono quelli tradizionali, che utilizzavano le culture antiche, e che sono ad esempio la stagionatura in cespuglio, in cui si taglia il bambù, si lasciano le foglie e i culmi di bambù si lasciano nel bosco, nello stesso bosco a cui appartengono. Oppure c'è l'immersione in acqua corrente per diverse settimane, l'immersione in sabbia o in fango, o anche la affumicatura. Quindi i culmi vengono sottoposti a calore e fumo per un determinato lasso di tempo. Poi ci sono i trattamenti chimici, che sono quelli moderni, e che ovviamente sono legati a problemi di salubrità e di impatto ambientale, anche se non si può negare che diciamo hanno permettono al bambù di durare di più. Scusa, sì. Salubrità, quindi ti riferivi al fatto che sono poi sostanze che vengono rilasciate nell'aria e quindi se ce l'abbiamo in casa ce le respiriamo. Ecco, esatto. Questo, ok. Lo stesso che comunque succede appunto nelle costruzioni anche in cemento, che comunque sono ricche di sostanze chimiche che poi vengono rilasciate nell'ambiente. E alcuni agenti chimici che vengono appunto che vengono utilizzati come soluzioni e trattamenti sono arseniato di rame, lindano, naftalina, formalina, veniva usato anche il DDT e dal 2004 poi è stato bandito, e poi c'è il boro e i suoi componenti borace e acido borico, e diciamo che questi sono i migliori in termini di durabilità e impatto ecologico e costo. E trattamenti, questi trattamenti con soluzioni chimiche prevedono l'iniettare delle soluzioni preservanti direttamente nei vasi conduttori del bambù, che sono tipo lunghe cannucce che corrono paralleli alle fibre del bambù, e quindi si utilizza la vocazione stessa del bambù, quello che fa la traspirazione, insomma, delle foglie che richiama le sostanze nutritive dalle radici ai vasi conduttivi fino alle foglie, e si iniettano proprio in questi vasi. Molto molto affascinante, come dicevi, sì, sarebbe da approfondire, perché da quello che hai detto e da quello anche ci siamo dette fuori ai microfoni, insomma, il tema è enorme, quindi per oggi la buttiamo un po' lì. E però riprendo un po' anche quello che dicevi prima della bibliografia, nella pagina del podcast poi pubblicherò tutta una serie di informazioni, titoli di libri e altri tipi di risorse. Facciamo una piccola pausa musicale, veramente pochi minuti, e oggi sì, siamo in vena di divertimento, per cui divertitevi con noi. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy así, ja. Relaja. Y tú ni me conoces a mí. Ed eccoci ritornati in voce, questa era So Io, l'avevamo capito, bomba stereo. Sì, sì, sì, spero vi siate divertite appunto con noi. E, ok, quindi siamo siete sempre su Radio Wombat, sempre su Nervature in questa puntata speciale in cui con le nostre due ospiti in studio, Vale e Bianca, parliamo di bambù. Quindi continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo detto varie cose, abbiamo detto com'è fatta la pianta del bambù e che caratteristiche ha e quindi per cosa si può usare, tutti i vari mille usi possibili. A questo punto vorrei un attimo scendere nel dettaglio della vostra ricerca, quindi il vostro studio di tesi che avete fatto insieme in Colombia, dove appunto si usa il bambù in vari modi, suppongo anche lì, però tra cui quello della costruzione con la tecnica che avete già infatti citato prima del bareke. Quindi proprio vi lascio la palla. Sì, allora noi siamo stati appunto in Colombia, nella città di Manizales, grazie a questo Erasmus Extra UE, proprio per studiare il bambù come materiale da costruzione, che è il tema centrale della nostra tesi di laurea. Abbiamo trascorso 6 mesi nella città di Manizales e è stata un'esperienza, una delle esperienze più incredibili della mia vita. Siamo andati qui non solo perché appunto l'Università di Firenze aveva degli accordi con la Università Nacional de Colombia de Manizales, ma anche perché qui cresce una specie di bambù gigante che si chiama Guadua angustifolia kunt. È un bambù che è estremamente resistente, è molto utilizzato in ambito architettonico in tutta l'America Latina. E quindi la guadua in questi territori andini, perché noi eravamo in una regione tra la cordigliera centrale e occidentale delle Ande, e in queste zone ha una storia profondamente radicata al territorio, ma non è l'unica pianta a essere protagonista. Forse al pari, o anche più importante di lei, devo ammettere, c'è la pianta di caffè. Infatti questa zona si chiama proprio Eje Cafetero, cioè asse del caffè, zona cafetero. E la coltivazione del caffè ha trainato lo sviluppo dell'area. È un paesaggio montuoso, complesso, caratterizzato anche da forti variazioni di altitudine e clima e molto sismico. Quindi diciamo che già le popolazioni indigene ne facevano probabilmente largo uso della guadua, e anche se purtroppo si conosce poco dell'architettura precolombina. Ma qui appunto si è sviluppata una tecnica costruttiva particolare nel corso dell'Ottocento. Sì, magari dai di bare che dico qualcosa io, di questa tecnica costruttiva dico qualcosa io. Allora, tanto per cominciare, anche per togliere ogni dubbio dalla rilevanza rispetto alla rilevanza di quello che stiamo dicendo, vi dico che abitano in case di bambù circa 1 miliardo di persone nel mondo oggi, e potrebbe anche essere un dato sottostimato perché si basa su dei report che abbiamo letto per la tesi, ormai ahimè, è passato qualche anno e l'ultima valuta, appunto l'ultimo dato raccolto ne contava 1 miliardo, e quando dico case di bambù non intendo con qualche dettaglio di bambù, con qualche elemento, intendo che la cui struttura portante è fatta di bambù, almeno la struttura portante. Il bareke è una delle tecniche costruttive più diffuse nel mondo ed è una tecnica costruttiva generalmente a secco, ma non sempre, che si basa su l'uso, l'impiego di pannelli portanti che hanno una intelaiatura in bambù, generalmente in culmi di bambù o eventualmente in legno, e poi delle tipologie di tamponamenti diversi, che possono essere in terra, in legno, sempre in bambù, in stuoi di bambù, possono essere in paglia, possono anche essere in cemento, perché esistono anche forme ibride di bareke che sono appunto, che hanno delle parti, ovviamente sono le versioni più recenti, più moderne, e addirittura prevedono di apporre delle reti metalliche e della calce di cemento sopra le strutture portanti in bambù. anzi in merito potremmo dire che in modo in realtà abbastanza controverso per quanto riguarda le prestazioni sismiche dimostrate, le normative, cioè i pochi paesi nel mondo che hanno delle normative sismiche di costruzione, diciamo, con e che prendono in considerazione la resistenza antisismica del bambù, di solito accettano e consentono solo l'uso di tecniche che combinano col bambù altri materiali, diciamo sintetici, tipo il cemento. Quindi vabbè, questo per dire che purtroppo le forme ibride sono anche quelle più apprezzate dalle normative, ma non dalla popolazione del mondo. E quindi bareche, struttura, diciamo definizione cappello per tutte le tipologie di costruzioni in bambù che usano questi pannelli. In Colombia il bareche è una tecnica tradizionale che fin dall'età, diciamo, che viene strutturata per come la conosciamo in realtà in fase coloniale. Ok, quindi quella che conosciamo effettivamente viene da un passato coloniale, e che oggi, tra l'altro, un certo tipo di bareche è patrimonio, fa parte, diciamo, delle tradizioni costruttive, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E noi andiamo in Colombia per studiare questo materiale, perché questo materiale è un materiale riscoperto da poco. Noi siamo andati a studiare una città che si chiama Manizales, che è minuscola per la Colombia, ma ha tipo 300.000 abitanti almeno, no? Non vorrei sbagliarmi, al tempo aveva circa 300.000 abitanti. 8 anni fa. Esatto. Non l'aveva detto finora. No, infatti è stata, vabbè. Forse era voluto. Assolutamente voluto. Comunque le informazioni sono aggiornate, noi purtroppo non siamo aggiornati, cioè noi biologicamente siamo, tutti gli 8 anni si sentono. Però la città è nella cordigliera centrale delle Ande, un posto molto bello, un posto appunto, come diceva Vale prima, molto sismico. E cosa succede? Il bareche, quindi le costruzioni in bambù, vengono progressivamente dimenticate. Un grosso incendio che interessa la città di Manizales lascia un po' questa ferita e fa ricostruire tutto abbandonando legno, abbandonando bareche e costruendo prevalentemente, insomma, un po' dappertutto in calcestruzzo armato. Nel 99 avviene uno dei più forti terremoti del Centro America, un epicentro nella regione del Quindío. Le città vengono devastate e ci sono degli studi fatti tra l'altro dalle unità, ora non vorrei confondermi, non mi ricordo se fossero le Nazioni Unite o i corpi di pace, comunque studi, valutazioni internazionali degli esiti, degli effetti del terremoto, che rilevano come in molte aree, in molti quartieri, in molte aree abitate, soprattutto di Manizales, ma in generale insomma dell'area caffettera, diverse abitazioni rimaste in piedi e in ottimo stato di conservazione sono fatte in bareche. E quindi questo un po' mostra come non è il materiale a non essere resistente o a non resistere neanche agli incendi, è il modo in cui il materiale è trattato. In qualunque incendio che abbiamo vissuto, scusate, terremoto per esempio, che abbiamo vissuto anche nel nostro paese, non è una tecnologia costruttiva a cadere, a crollare, è una tecnologia costruttiva effettuata male, mm-hmm. Quindi non rispetta il funzionamento dei materiali. Tra l'altro qui vorrei introdurre il tema del grande incendio che è scoppiato a Hong Kong in Cina a novembre del 2025. Però se dici Hong Kong in Cina, i Hong Kong ti vengono a cercare. No, scherzo. Hong Kong, che ovviamente è autonoma. Hong Kong. Ah sì, a Hong Kong. Ah già, Hong Kong. E, così come Taiwan è autonoma. Sì. E appunto questa residenza, questo quartiere residenziale ha preso fuoco, stavano ristrutturando un edificio di 23 metri che era circondato da impalcature di bambù, e il sistema delle impalcature di bambù credo che in Cina sia antico, di 3.000 anni, quindi continuano a costruire così, e hanno appunto additato, in realtà è stata una tragedia, sono morte tantissime persone, hanno additato appunto il bambù come il responsabile della diffusione del fuoco e delle fiamme, ma in realtà ho letto vari articoli e probabilmente sono stati i materiali, ad esempio i teli di plastica, quindi materiali di rivestimento, il polistirolo che sigillava le finestre a far divampare così velocemente il fuoco. Quindi diciamo che ancora una volta questo materiale viene bistrattato perché appunto però diciamo che già il governo aveva intenzione di sostituire il 50% delle impalcature con l'acciaio, insomma con strutture metalliche, e questa cosa sicuramente ha accelerato il processo, però è anche appunto giusto ripetere, come ha detto Bianca, che i materiali naturali, se trattati adeguatamente non sono infiammabili e possono durare molti decenni. Quindi insomma è anche giusto ribadirlo. Certo. Sì. Tra l'altro, ecco, per fare un accenno e poi come argomento riprenderemo dopo, può darsi magari che il fatto che non vogliamo noi Occidente dare tanta considerazione a questo materiale è perché a questo si lega, e non solo a questo, una serie di simbologie di sì, è naturale, però è talmente naturale che forse è per poveri. Esatto. O comunque la butto lì così per adesso, perché tanto lo riprenderemo tra poco questo argomento, anche se magari in senso opposto, poi lo vediamo. Però ecco, ci sta che anche questo contribuisca come fattore. Quindi ecco appunto, quindi riconcludendo appunto la storia della Colombia di Manizales, quindi dopo il terremoto si rivaluta, quindi. Esatto, sostanzialmente dopo il terremoto si capisce che è legittimo e anzi pienamente sensato reinteressarsi a questa tecnica costruttiva che nel tempo era stata dimenticata. Questo ha due traiettorie. Una è quella diciamo della valorizzazione del patrimonio, cioè ci sono ancora intere cittadine piccolissime, però alcune chicche, una era Salamina per esempio, costruite in bareche, che fanno parte quindi del patrimonio architettonico e artistico del paese, e l'identità del paese si può ricostruire anche promuovere a partire anche turisticamente, quindi anche proprio in termini di, così, di narrazioni e branding, se vogliamo, però si può ricostruire anche sulla base di questi materiali. E in realtà vale anche la pena però studiare il materiale dal punto di vista strutturale, e quindi iniziano esperimenti in laboratorio, si inizia a capire, a testare appunto le prestazioni, a capire quali sono i modi, si recuperano le conoscenze tradizionali per massimizzare le performance del bareche oggi, per come lo possiamo costruire oggi, e si arriva a inserire il bareche nella normativa appunto sismo resistente, quindi diciamo sì, la normativa per costruire edifici che resistano ai sismi, che poi è il criterio principale per legiferare nell'edilizia. E quindi questa attenzione rinnovata fa anche partire percorsi di ricerca all'interno dell'università, e lì entriamo un po' in gioco noi. Tra l'altro appunto noi abbiamo conosciuto due architetti molto importanti, perché appunto riprendendo due discorsi che facevate entrambi, uno di Bianca, per cui un sacco di persone vivono in case costruite in bambù, e due, appunto, molte persone povere. Però è anche sperimentato da architetti di fama internazionale per residenze di lusso, per ponti, per grandi coperture. Quindi insomma diciamo che ha questo doppio binario la sperimentazione. Certamente gli architetti purtroppo progettano soprattutto per i ricchi, ma non solo. Quindi diciamo che le scuole di riferimento nel campo dell'architettura in bambù più famose sono quelle asiatica e quella dell'America Latina. E appunto noi abbiamo incontrato Simon Vélez, che è uno degli architetti, degli esponenti più in vista forse della scuola dell'America Latina, e anche Marcelo Villegas, due personalità che è un grande, è verissimo, due personalità molto diverse, la cui diciamo che collaborano. Però Simon Vélez appunto ha ricevuto un sacco di riconoscimenti internazionali, non dalla Colombia però, attenzione, si sta dedicando adesso a la progettazione di abitazioni a basso costo e di facile assemblaggio, e soprattutto con Marcelo Villegas, che invece è un personaggio meno in vista, ma è un ricercatore instancabile, un appassionato di bambù, un disegnatore, scrittore, che noi abbiamo conosciuto. Non solo, siamo stati a casa sua, ci ha offerto un pranzo buonissimo, buonissimo. Siamo stati nel suo laboratorio a Cincinnà. Lui progetta degli oggetti di design con le radici, con i rizomi, bellissimi. Lui, okay. Sì, è lui. Io lui. Allora ci piace. Allora approved. Esatto. E appunto, un instancabile appassionato, Marcelo Villegas e Simone Veles stanno sperimentando delle giunzioni tra culmi ingegnerizzate, utilizzando quindi non solo bambù, ma placche metalliche, bulloni metallici e iniezioni di cemento Portland. E quindi la scuola latinoamericana sperimenta soluzioni più innovative, ibride, mentre la scuola asiatica, per quanto riguarda le giunzioni, rimane ancorata alle legature. Eccoci, rientriamo in voce, quindi rientriamo. Super, super interessante, affascinante veramente tutta la vostra esperienza lì e anche questi personaggi. Belle le storie, comunque sono belle. E, allora, quindi non abbiamo tantissimo tempo, però magari proviamo a fare, quindi a riprendere l'argomento delle simbologie, delle visioni che abbiamo vagamente così buttato lì sul piatto prima. E magari appunto ci spiegate un po' com'era lì, quindi sto parlando di che simbologia aveva o ha tuttora, insomma, il bambù in Colombia, da chi viene usato, come, perché, volentieri, malvolentieri. Allora, intanto vai, mi lancio io, però mi raccomando, Vale, interrompi di tutto quello, perché vale la pena non perdersi pezzi di questo sono passaggio. Pronta. Io ho raccontato finora una storia che era quella della valorizzazione del bambù, del bareque come parte del patrimonio, addirittura dell'identità, se non di tutta la Colombia, di questa regione della Colombia. Qualcosa che viene studiato, su cui ci sono corsi nelle facoltà di architettura, eccetera. E noi effettivamente, ed è un po' il nostro battesimo, e quindi accompagnando chi ci ascolta nelle fasi, diciamo, nella stessa scoperta che abbiamo fatto noi abbiamo... Appena arrivate abbiamo avuto la fortuna di avere un campo di applicazione e di studio, di esplorazione, di analisi degli usi del bambù e delle potenzialità del bambù. Ci hanno sostanzialmente accompagnate e abbandonate in un quartiere che era un poco fuori da Manizales, un barrio de invasion, così si definiscono quei quartieri informali che nascono da un atto di occupazione. Tra l'altro quel contesto aveva un atto di occupazione ovviamente da parte di popolazione, abitanti che si trasferiscono in quel luogo, autocostruiscono e a quel punto occupano l'area, i terreni, i lotti, eccetera, e iniziano a viverci. Sono azioni e fenomeni che possono seguire percorsi e iter molto diversi, possono anche sfociare in legalizzazione, ok? Quindi nell'ottenimento di un titolo alla fine. Era il tipo di percorso che stava facendo il quartiere in cui siamo capitate, e tra l'altro appunto la storia è abbastanza avvincente perché si trattava di un possedimento, cioè lo spazio che era stato occupato dalla popolazione in questo caso, perché questo quartiere era fuori dalla città. Questa è una cosa abbastanza originale, di solito gli slum, no? I quartieri informali sono periurbani, fuori dalla città, anzi all'interno di campi di frutta, ed era parte dei possedimenti del narcotrafficante Roberto Escobar, che è il fratello di Pablo Escobar, quindi tutto vero. C'era tutto questo coté, per cui sembrava totalmente legittimo abitare nei terreni di un ex narcotrafficante, quindi c'era anche un certo favore così di opinione pubblica, insomma un bel contesto. Ti ricordi anche quanto distava da Manizales? Ah, giusto, giustamente il nome del barrio era chilometro 41, perché in realtà era chilometro 41 il piccolissimo, minuscolo centro abitato, diciamo regolare, formale, accanto a dove era stato, che era una vecchia fermata del treno, dei treni che poi sono stati smantellati in Colombia. Beh, c'è stato tutto questo, il sistema ferroviario ha sofferto moltissimo per ragioni di interessi, ma vabbè, questo ci porterebbe lontane. Ma cosa succede? Noi andiamo a studiare perché quel quartiere autocostruito ha la particolarità di essere interamente costruito in bambù, e noi quindi pensiamo di avere tra le mani un caso di studio eccezionale. Siamo nella regione del Bareke, nel centro della cultura del Bareke, circondati da bambusetti, quindi le persone, abbiamo uno spazio autocostruito. Ci aspettiamo che le persone che troviamo, e lo sappiamo tra l'altro perché poi entriamo in contatto con la comunità, abbiamo delle relazioni con quelli che vengono chiamati leader sociali, che ci raccontano, ci fanno parlare con qualcuno degli abitanti prima. Insomma, noi sappiamo che queste persone sono anche formate sia a trattare il bambù sia a costruire in bambù. Ma quando andiamo sul campo ci accorgiamo che le case in bambù sono costruite malissimo. Cioè, nessuna rispetta quegli standard minimi che noi abbiamo studiato, perché cioè che diciamo la loro cultura ci ha insegnato. Ma e loro insomma non decidono di non costruire il bambù. Il bambù è trattato male, è spesso ricoperto, rivestito con plastica, spesso rivestito con cartongesso, con materiali completamente diversi, e che tra l'altro ne riducono drasticamente le performance e le prestazioni. Quando diciamo riducono drasticamente, parliamo per esperienza, perché noi abbiamo iniziato a studiare tutte le abitazioni, le abbiamo rilevate, le abbiamo disegnate, le abbiamo misurate, abbiamo guardato come cosa cambiasse, ci siamo fatte raccontare le storie di come erano state costruite, le loro intenzioni sulle case, le loro ambizioni. Dobbiamo immaginarci che era appunto un barrio occupato, ma in vista di legalizzazione, quindi le persone si potevano presumere che quel lotto, quell'edificio che avevano costruito sarebbe stato riconvertito, e quindi formalizzato, riconvertito, ufficializzato, e quindi magari avrebbero potuto svilupparlo. Noi chiedevamo proprio questo: quando dovesse avvenire la legalizzazione, cosa vorrete fare? Ci aspettavamo, non so, farci il giardino, no, vai. Ampliarla, farci il giardino, sostituire, mettere un piano in più. E invece tutti ci rispondevano: farlo in cemento. E noi: ma scusate, ma che come? No, in cemento. Ma come? Ah no, noi vogliamo, quando dovessimo legalizzare, noi finalmente vogliamo costruire la casa in materiale. Allora, diciamo proprio così, en material in spagnolo. E en material, all'inizio noi appuntavamo tutto, trascrivevamo, a volte registravamo, diciamo en material, forse material significa qualcosa in colombiano che non sappiamo in spagnolo. Invece era letteralmente immateriale. Cioè, il materiale, come se il bambù non lo fosse, esatto. Non fosse un materiale da costruzione. Finalmente con la legalizzazione avrebbero costruito con un vero materiale. Il vero materiale era il cemento. E noi restavamo basite perché nelle case in bambù, diciamo, quello era un contesto eccezionale, mm, perché potevamo entrare in una zona tropicale caldissima, con un'umidità altissima. Potevamo entrare nelle case, anche nelle case costruite in cemento del vicino chilometro, insomma, dell'area del centro abitato, e non c'era confronto. Dentro le case in bambù si stava bene, in bambù, rivestite in bambù, o rivestite in legno, o addirittura rivestite in terra. Ce n'era una tamponata in terra che era eccezionale. Si stava bene, l'aria era fresca, c'era anche proprio una qualità dell'aria, un profumo. Si stava bene. In tutte le altre si soffocava. E noi restavamo basite. Ah sì, forse non abbiamo detto che c'era il 90% di umidità. Sì, che e più o meno 35 gradi. Giusto, giusto. E allora abbiamo iniziato a esplorare questo fenomeno. Abbiamo iniziato a cercare di capire da dove venisse questo discredito che veniva tenuto nei confronti del bambù. Perché le argomentazioni che venivano portate non erano supportate da dati. Cioè, uno era quello della durabilità. È vero, il bambù può durare poco, lo diceva bene Vale prima. Se non lo tratti bene, dura poco. Come le relazioni sentimentali. Però... po, po, po, po. Però a chi era indirizzata questa frase? Non lo so. Ogni riferimento fosse veramente da tra poco. Detto, vabbè, ti è venuta così. Poco. No, ma hai ragione, tutto vero. Oh no. No, però era banalmente un circolo vizioso. Cioè, ci è capitato più volte che delle persone ci dicessero: ah, no, questa casa così com'è non durerà più di 5 anni. D'altronde io ho fatto XYZ, cioè io non l'ho tagliato bene, io l'ho messo in posa prima che fosse... quindi erano anche consapevoli. Esatto, noi mi hanno detto, ma perché? Perché l'avete fatto? Ogni tanto c'era qualche racconto, noi parlavamo con loro sia, diciamo, una persona alla volta che a volte anche insieme, ma c'erano dei racconti di persone che ci raccontavano che invece, per esempio, i loro nonni o i loro genitori avevano avuto case in bambù per 20 anni, 30 anni, e poi a un certo punto avevano deciso, con i soldi della legalizzazione, insomma nel momento in cui erano arrivati i fondi governativi, di costruire in cemento, e nel momento in cui avevano costruito in cemento i soldi non erano bastati per fare un piano in più, oppure invece era diventato troppo caldo e quindi la casa non performava più, come insomma non era più, non dava più lo stesso comfort. E quindi di fronte a queste evidenze noi diciamo, ma anche se, cioè, senza voler condizionare, poi diciamo chi fa ricerca, noi eravamo ancora giovani e in parte sprovvedute, però chi fa ricerca cerca sempre di non incalzare una risposta, ma piuttosto si mette in ascolto. E quello che veniva, il feedback che ricevevamo, erano appunto tutte queste pregiudizi sul bambù, nonostante avessero milioni di prove che il bambù poteva resistere 150 anni, perché abitavano letteralmente a 41 chilometri, ma anche a molto meno, c'erano città molto più piccole edifici in bambù ancora in piedi dopo 150 anni. Loro ti dicevano: il bambù non resiste ai terremoti, ma si sa che funziona meglio il cemento. E questo immaginario è legato anche alla globalizzazione che porta con sé, e l'introduzione appunto dei nuovi materiali industriali che portano con loro una promessa di eternità. Mm-hmm. E secondo me questa cosa, ne abbiamo discusso anche tanto con Bianca, ecco, è il pensare che l'architettura sia eterna, illimitata, infinita, a parte che non è reale, e poi è anche un po'... fuorviante, insomma, trasformare lo spazio, costruire è un atto umano e quindi per sua natura finito, ha un inizio e una fine, quindi va benissimo ovviamente cercare di donare a una costruzione una certa durabilità nel tempo, però ecco, questa promessa di infinito è quello che poi permette di continuare a produrre materiali così tanto inquinanti. Sì, diciamo, noi ci siamo accorte, guardando le case, fotografandole, che il modo in cui erano poi arredate, trattate, finite, rivestite, non era coerente col bambù. Cioè loro stavano riproducendo in bambù delle case che non erano case in bambù, cioè non avevano le aperture consentite, non avevano per esempio degli arredi molto pesanti, da posti freddi, invelluti, avevano delle pareti continue, nascondevano il più possibile le fattezze dell'architettura tradizionale e soprattutto nascondevano la maggior parte delle abitazioni ogni riferimento a materiali naturali, e invece riproponevano un modello che non era di quel luogo. Degli amici messicani, poi, con i quali ho parlato anni dopo, ovviamente anche il Messico subisce molto questo tipo di fenomeno di importazione di culture, di anche fascinazione per modelli e riferimenti che non solo non sono propri, ma proprio sono in contrasto con il benessere che invece porterebbero altre soluzioni. Ecco, loro la chiamano transculturazione, questa importazione dei riferimenti, dei modelli culturali. E la cosa che colpisce è che quando riguarda per esempio la moda o la musica o la cultura, ha un certo impatto sulla nostra vita, e magari è una cosa che ci intristisce perché fa perdere le radici, il collegamento col territorio, con il passato e la tradizione, ma quando riguarda le abitazioni ha un effetto devastante anche sul mod, sulla qualità della vita. E questo ci ha colpito tanto, però in effetti non è così lontano anche dal modo in cui viviamo noi, perché anche noi non penseremmo mai oggi di vivere una casa costruita in materiali naturali, cioè la favola dei tre porcellini è arrivata anche da noi. Certo. Il maiale sì, infatti. No, ma infatti sono discorsi super interessanti per varie ragioni, tra cui anche questa che accennavi, cioè ma da noi che succede? Ma noi siamo tanto diversi? Cioè, anche, non lo so, ora appunto mi viaggiava un po' la testa mentre parlavate, anche in una serie di domande nel mettersi in discussione noi come società, le nostre pratiche, ma andrà bene, boh, la casa come è fatta da noi, chissà. Quindi tutta una serie di domande. Molto, molto interessante. E in questo ambito mi viene da citare, io posso riportare, ma veramente la dico in mezza parola, in Gambia ho visto la stessa cosa. C'erano case in argilla e paglia, ora io non sono architetta, quindi di preciso non è che lo so, però di base muri abbastanza, muri fra virgolette, insomma, piuttosto larghi, appunto di base terra seccata, con tetti molto spessi di paglia, strati di paglia, di non so quale pianta, una sopra l'altro, case freschissime dentro, pochissime finestre, molto buie, poca luce, vabbè, non c'è elettricità, freschissime, si stava benissimo. Però le case dei ricchi, lamiera, ferro, lamiera, 47 gradi. Stava malissimo. Pochissima aria, si stava malissimo. Quindi esattamente la stessa cosa, la stessa tipo di simbologia che riporta a uno status sociale, alla ricerca proprio dello status sociale, dell'imitazione alla fine di chi pensiamo essere non proprio migliore, ma insomma di vivere in condizioni migliori. Però tutto molto discutibile, appunto. Va a escuchar en Puerto Rico, Venezuela, Panamá, en todos los lugares, las ciudades, Villa Miseria. Yo vengo sin histeria, que le pongan a menear. Se va a escuchar hasta el fin de la tierra. Y así nomás, Babilonia no más tierra y no me podrán frenar. Ya no podrán parar en la revolución espiritual. Yo, yo, yo, yo, yo. Para las mujeres, para las mujeres, para las mujeres, para las mujeres. Ed eccoci quindi che rientriamo in voce, sempre i Cianciavia Circuito, stavate sentendo. E, allora, sì, il tempo a nostra disposizione è più o meno quasi concluso, per cui stavamo dicendo anche fuori i microfoni che questi argomenti potremmo approfondirli seriamente molto di più e, perché no, magari lo faremo. Per cui per oggi ci fermiamo qui perché abbiamo dato un'ottima panoramica comunque e siamo riusciti a seguire la scaletta come abbiamo detto. Per cui adesso ci avviamo verso l'ultimissima parte di questa puntata che introduco con la dovuta sigla. Interessati a dialogare con le piante. Pianta storia. Sensibilità. Pianta storia. I nostri esperti. Ed eccoci quindi, sì, gli ultimi 10 minuti di puntata li usiamo così con le pianta storie delle nostre ospiti. Quindi non so chi di voi vuole iniziare, a parte che vabbè, ovviamente ce l'avete già raccontata una testa molto, molto ampia riguardo al bambù, ma magari ce n'avete un'altra. Allora, io ho tre storie brevissime. Una è triste. Va bene, siamo preparate, ok. Però la devo ammettere. Ci teniamo. Allora, ho fatto morire il mio potos. Grande. E non, probabilmente gli ho dato troppa acqua. Tutti a dirmi, hai dato troppa acqua, c'aveva troppa poca luce. Gli hai dato troppa poca acqua. Io non lo so veramente. E noi sappiamo che il potos resiste a tutto esatto. Questo. Eppure l'hai fatto morire. Non so. Mi hanno giudicato tutti e continuano a farlo per questo, ma non potevo non raccontarlo. Va bene. Però... noi non ti giudichiamo. Grazie. Siamo qui per non imparare. È vero. No, non è vero. Lo vedo, lo sguardo giudicante. La seconda pianta storia che vorrei raccontare in realtà è legata a una persona, perché avevo litigato con un ragazzo che da quel momento mi ha odiata. Poi mi ci sono riavvicinata e mi ha regalato questa pianta che in gergo è chiamata madre di milioni, madre di migliaia. Io mi sono andata appunto a leggere qual è il suo vero nome, Calancoe daigremontiana. Cos'è successo? Mi ha dato questa pianta e poi si è arrabbiato di nuovo con me. Perché d'altronde se lo tratti male non dura, io ve l'avevo detto. Tutto Bianca, se fosse la verità. E questa pianta stava malissimo, stava morendo. Oh, e poi... ci siamo riappacificati e questa pianta è risorta, è rinata. Wow. Forse è un caso, probabilmente è un caso, però è un caso bello. È un caso bellissimo. È un caso bellissimo. Adesso è fiorente. Wow. E ho quasi finito. La terza pianta, è una pianta che mi piace molto e che mi lega a una persona molto speciale, è la pianta di limoni. Però non racconterò niente qua, chiudo così. Ah, così, eh? Sì, ci lasci proprio... Ma infatti non ce l'avevi neanche anticipato. Puntini, puntini. Per la prossima puntata. Esatto. Grazie, belle. Prego. Belle. Allora, io mi sono interrogata molto su quale pianta storia, quale, insomma, pianta storia portare. E in realtà ne ho una a questo punto che esporrò senza pudore. E io mi sono avvelenata a questa conosco con una pianta. Allora, come è successo? È la prima pianta storia di un avvelenamento, ti ringrazio tanto. Ecco, ci vai. Sarò brevissima, ma purtroppo solo perché il tempo me lo chiede, sennò potrei tenere convegni. Mi era stata regalata da mio zio un paio di bulbi di Stembergia da piantare in giardino, assomiglia al crocus, fa un fiore giallo molto bello, eccetera. Insomma, per qualche ragione ancora non del tutto chiara neanche a me, l'ho scambiata per dello scalogno. Quindi ci ho fatto un soffritto, a mia discolpa era stata messa per errore in un contenitore, in cui, cioè in un tipo di sacchetto in cui spesso teniamo le cipolle che compriamo, vabbè, sì. Ad ogni modo ci ho fatto un soffritto e ci ho fatto un soffritto con cui ho fatto una pasta che abbiamo mangiato io e il mio compagno, che effettivamente aveva un sapore orrendo, cosa che mi ha offeso moltissimo, Quindi per dimostrargli che non fosse orrendo, lui che aveva rifiutato metà piatto, io ne ho mangiati due. Wow. E dopo meno di 10 secondi abbiamo iniziato a vomitare orrendamente senza poterci fermare. Lui che cercava di resistere, no, no, era praticamente i postumi di una sbornia fortissimi. Cioè non poteva, wow, girava tutto e dovevamo solo vomitare. Niente, abbiamo chiamato il pronto soccorso, siamo andati in ospedale. Vi dico solo che ci hanno fatti passare avanti. Cioè quando noi siamo arrivati all'accettazione, al triage del pronto soccorso, c'era una persona che aveva un corpo contundente infilato nel cranio. Ok. Ciò nonostante ci hanno fatto passare davanti, perché risultava dai libri che la Stemberger è letale. Il punto è che diciamo nessuno prima d'ora aveva mai mangiato i polvi. Quindi almeno nessuno che, diciamo, che sapesse il sistema sanitario italiano. E quindi sostanzialmente così disperati ci portano dentro, ci ricoverano. In realtà noi, avendo vomitato, poi abbiamo potuto verificare che non era successo niente, avevamo già espulso eccetera e non abbiamo rischiato niente, però tale e tanto era, diciamo, panico, l'improbabilità che qualcuno mangiasse questa cosa e, esatto, e è così negativa l'informazione sulla pianta che... c'è stato un piccolo dramma. Wow. Comunque ora l'abbiamo anche piantata in giardino. Ok, e rimane lì. E rimane lì. Vi sconsiglio, non è neanche buona, quindi non ci imitate proprio da casa. Bene, bene. Bellissima, bellissima questa pianta storia, ho adorato. Che dire, siamo arrivate davvero alla conclusione di questa puntata. Credo che, appunto, come dicevo in apertura, oggi siamo registrate, per cui chi ci sta sentendo a casa, sappiate che siamo nel futuro o nel passato, chissà, dai punti di vista. Comunque, volevo dire, a parte le stronzate, immagino che chi ci ha ascoltato a casa, ecco, gli sia venuta parecchia curiosità e anche parecchie domande. Non esitate a farle tramite il pad, direttawombat.vado.li è il link per accedervi. E tra l'altro dal sito pubblicherò, anzi ho già pubblicato per voi all'ascolto, il podcast di questa puntata, nella quale descrizione ci sarà tutta una serie di informazioni utili, bibliografia e quant'altro. Che dire, a questo punto mi sa che ci dobbiamo salutare e potete anche salutare voi se ne sentite la necessità. Assolutamente sì, ciao ciao. Ho un saluto, saluto profondo. Sì, a tutte e tutti, ciao, ciao. Grazie Addu, ciao, buonanotte. Sì, buonanotte, grazie mille. Probabilmente ci risentiremo, dai, speriamo che ci sarà una seconda puntata. Noi volentierissimo, cioè, eccoci qua. Bellissimo. Con Nervature ci risentiamo tra una settimanina, sempre lunedì alle 19. Continuate a ascoltare Radio Wombat, mi raccomando, rimanete connesse. Ciao ciao. Tempo corretto. Deja que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Aquí el cielo se funde con el mar. Las heridas comenzaron a salir, llevando lo que se debe llevar. Puedo.